Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con Anastasia Plazzotta di Wanted Cinema per presentare il film Reflection dell'ucraino Valentin Vasianovich al cinema da giovedì 17 marzo 2022. Ben trovata! Ciao, ciao, salve a tutti! Lo descriviamo a chi ci ascolta? Comincerei col dirvi che il film l'ho visto a Venezia per la prima volta a settembre e ne sono rimasta davvero turbata, nel senso che ci sono alcune scene veramente forti che ti rimangono impresse proprio nella memoria e ti tornano su pian piano. Io l'ho visto senza conoscere molto del Donbass, pur essendo io russista, mi sono laureata in russo, quindi insomma tutte le storie lì di quei territori le conosco, ma il Donbass e quello che era accaduto non lo conoscevo proprio per nulla. Mi sono quindi subito interessata al tema e ho apprezzato tantissimo il film, nel senso la sua propria costruzione e lo stile di Vasianovich, che io colpevolmente non conoscevo, nel senso che non avevo visto il suo film precedente in particolare, che ha avuto un grande successo proprio anche a Venezia, vincendo la sezione di Orizzonti 2 anni prima aveva vinto. Posso solo dire che i protagonisti ovviamente hanno a che fare con la guerra, che non è quella di oggi, ma è una guerra atroce, simile a quella di oggi, nello stesso territorio, sempre la Russia e sempre l'Ucraina hanno i protagonisti. C'erano due figure principali maschili, uno che fa il medico sul fronte e l'altro che combatte. Ci sono una storia anche familiare, una famiglia che ruota attorno a questa guerra, quindi c'è una vita quotidiana, c'è una vita sul fronte, e la cosa che colpisce tantissimo è molto la capacità di raccontare di Vasianovich con un rigore stilistico incredibile, nelle inquadrature geometriche, riesce anche a restituire con la sua arte in qualche modo questo senso di claustrofobia, questo senso di dramma della guerra anche attraverso le immagini. Ci sono anche delle scene iniziali molto forti che chiunque vada al cinema le prego di sopportare, perché non è tutto il film così agghiacciante, ci siamo delle torture, ma non è tutto così, quindi sono solo i primi 10-15 minuti che mettono molto a dura prova la sensibilità dello spettatore e poi il film cambia un po' tono in qualche modo. È un film che è diventato tragicamente attuale, che all'epoca non sapevo, cioè l'ho fatto un po' distinto col desiderio di portare a conoscenza anche al pubblico italiano questa vicenda e anche di far conoscere in Italia questo incredibile autore, questo regista così importante. Adesso che il film ha purtroppo in noi un valore diverso, molto diverso da quando l'ho visto, è diventato per me importante portarlo al cinema anche per, come gesto di solidarietà per l'Ucraina, per mostrare e far conoscere a tutti il più possibile il che sta in qualche modo accadendo. È diventato di un'attualità sconcertante e quindi andare a vederlo aiuta davvero a capire di più questa guerra assurda che sta accadendo così vicino a noi, ecco. E Vasianovich è proprio uno di quelli che mette a servizio completamente se stesso, che ci crede tantissimo per raccontare quel che sta accadendo nel suo paese. Anche il film precedente, che è Atlantis, che anche quello uscirà con Wanted a metà aprile, è un esempio quasi più sconcertante ancora della sua visionarietà, in qualche modo. Un film che era stato catalogato come fantapolitica, per dire, prima che tutto questo accadesse. Immagina un'Ucraina post-bellica nel 2025, a un anno scrive, dopo il conflitto Russia-Ucraina, in un paese che sta cercando di ricompattarsi, di tirarsi su. I protagonisti sono un uomo che fa volontariato e si mette a lavorare per cercare di recuperare i cadaveri anche russi, insomma i cadaveri di quella guerra, cercare di dargli un nome, dargli una degna sepoltura, oppure a togliere le mine su questa landa desolata. Cioè sono delle immagini incredibili che oggi lo diventano ancora di più, tragicamente. All'estero ha avuto una sua circuitazione? Sì, adesso poi in tantissimi ovviamente cercano proprio di dargli visibilità anche attraverso delle associazioni di cinema ucraino, in Austria, è uscito anche di recente, sì, cioè adesso sempre di più. Il film è nuovo, quindi ho avuto la premiera internazionale, come dicevo, a Venezia, a settembre, quindi tra da settembre a oggi credo che l'abbia fatto uscire soltanto un paese prima di questi tragici avvenimenti, che ovviamente hanno dato un'accelerata e tutti i paesi che l'avevano acquisito però hanno accelerato un po' i tempi per la distribuzione per dare la possibilità di mostrarlo ora. Insomma, noi anche abbiamo organizzato anche delle anteprime assieme alla Mostra del Cinema di Venezia, la Biennale, e adesso uscirà invece nuovamente in sala il 17 di marzo. In quante sale? A Roma uscirà il Cinema Troisi, poi ci sarà Palermo, Bologna, Firenze, Torino, Milano, Lanzea, Napoli, Padova, insomma sempre di più si stanno un po' aggiungendo, stiamo anche cercando di coinvolgere delle associazioni, in tanti i cinema devolvono una parte ricavato alle associazioni a sostegno dei rifugiati dell'Ucraina, insomma c'è anche dietro una campagna di sensibilizzazione e devo dire che siamo contenti insomma di questo appoggio, che l'idea, sia sull'idea del film, comunque in qualche modo aiuti anche, aiuti concretamente. Sarebbero molto contenti i registi e i produttori che sono attualmente in Kiev e sono attualmente sul fronte, sulla strada, quindi credo che sarebbero molto contenti di questa cosa, questi eventi che stiamo organizzando. Il film Reflection del regista ucraino Valentin Vasianovich al cinema da giovedì 17 marzo 2022. Un saluto e un ringraziamento ad Anastasia Plazzotta di Wanted Cinema che lo distribuisce. A presto! Ciao, grazie, grazie a voi. A presto. Con il critico cinematografico Federico Pontigia per presentare il film Licorice Pizza di Paul Thomas Anderson al cinema da giovedì 17 marzo 2022. Ben ritrovato Fede. Ciao, ben trovati. Come ne parleremmo? Ne parleremo molto bene. È un grande film, potremmo dire la prova del 9 perché tanti sono i lungometraggi in un quarto di secolo di Paul Thomas Anderson, Magnolia, The Master, Il filo nascosto tra le altre cose. È un piccolo grande film, nel senso piccolo per dimensione ma grande nella smisurata capacità di dire dell'umano, di dire dell'amore, di dire poi tutto questo, quasi come un feel good movie d'autore. Non era facile farlo. Paolo Sorrentino l'ha lodato, ha detto che è un grandissimo film, il suo preferito tra quelli poi in lizza a vario titolo per i prossimi Academy Awards. Ricordiamo la 94esima notte degli Oscar sarà appunto il prossimo 27 marzo. Ma tutto questo, mi viene da dire, è quasi una diminuzione rispetto a davvero la bellezza di questo film. È un film che mi verrebbe da dire, forse con un po' di cattiveria, è quello che avrebbe forse voluto essere lo stesso che è stata La mano di Dio di Sorrentino. Qua c'è un deciso cambio di passo, c'è anche qua un'evocazione biografica, autobiografica, perché si ritorna a San Fernando Valle del 73 con le geometrie variabili del primo amore, il tira e molla, i rovesci, le schiarite, del quindicenne Gary Valentine e della 25enne Alana Kane. Allora, chi sono gli attori che le interpretano? Per il primo c'è Cooper Hoffman, che è il figlio del compianto Philip Seymour Hoffman e che è Paul Thomas Anderson allevato come se fosse appunto il proprio figlio. L'altro invece è Alana Haim, che dirà qualcosa a chi segue il gruppo Haim che ha formato con le sorelle Esther e Danielle, che ambedue le ritroviamo qua nel cast. E entrambi a questa straordinaria coppia che tanti dei nostri attori anche dovrebbero guardare per capire qual è la differenza tra fare l'attore ed esserlo, anche se in questo caso si tratta di esordienti, ecco, hanno un compito, questi due, difficile, cioè di passare da sul canovaccio della boy meets girl, cioè della ragazza incontra ragazza, che è un sottogenere, no? Del cinema, segnatamente di quello americano, tocca appunto il compito di passare da American Graffiti al primo Woody Allen, dai Goonies all'ultimo Quentin Tarantino, proprio per l'aderenza storica, penso ovviamente c'era una volta a Hollywood, e poi ancora anche ad altre latitudini, ad altre temperature cinematografiche. Troverete qualcosa di Jacques Doyon, qualcosa di Truffaut, Zemeckis appunto dicevamo, ma anche Sales, e tutto senza colpo ferire, nel senso che non c'è da parte di Paul Thomas Anderson né alcuna volontà di mettersi ex cathedra e nemmeno di voler dare una lezione, no? Sebbene di cinema e solo cinema. Qua non c'è nessuna lezione, c'è un'aderenza totale alla storia e ai personaggi che si è dato. Cosa succede nel film? Veniamo a conoscere questo Gary Valentine, che per lo showbiz coevo americano è un baby attore, è modellato su un child actor appunto che era Gary Goetzman, crescente sulla bilancia perché appunto è un po' sovrappeso e soprattutto è adulto, larger than life, nell'ambizione. Che fa? Fa l'impresario, fa l'imprenditore di se stesso. Aiuta a pubblicizzare degli improbabili ristoranti nipo-americani per conto della madre. Poi, insieme ad Alana, si mette a vendere letti ad acqua e poi, origliando una conversazione tra politici, inizia a vendere flipper in solitaria. Insomma, una ne fa, cento ne pensa, ma tutto questo brigare, tutta questa imprenditoria è sempre seconda rispetto all'ostinazione, alla cotta, che è più di una cotta, che ha per Alana. Com'è questa Alana? Innanzitutto sensualissima, non è canonicamente bella, è davvero straordinariamente intensa e parlo sia del personaggio che della persona, che non a caso Paul Thomas Anderson per entrambi tiene lo stesso nome, Alana appunto. Ed è questo film, se ancora non bastasse, no, questa strana, struggente e appassionante copia, impreziosito da corposi camei. Sean Penn, che interpreta un attore che se la sente molto, Jack Holden, che pare essere modulato sul re del botteghino degli anni 50, che era William Holden. Poi troviamo, e rischia forse anche di rimanere ancora più di Penn nel nostro immaginario, nella nostra memoria, Bradley Cooper, che interpreta il produttore John Peters, già partner di Barbara Streisand e cinque volte sposo, l'ultima a Pamela Anderson. C'è ancora un altro regista, Benny Safdie, e poi tra questi camei anche Tom Waits, che essendo solo attore interpreta appunto un regista. Invece Benny Safdie che interpreta? Interpreta un politico, allora al momento della storia, no? Al momento in cui qui entra sullo schermo gay non dichiarato, Joel Vax. Quindi ci sono una mistura, una miscela di caratteri veri o finzionali, ma tutti con i crismi della realtà. È veramente una presa surreale forte, quella che fa Licorice Pizza. Tra l'altro il titolo, se ben ricordo, è Cage, un negozio di dischi della prima giovinezza di Paul Thomas Anderson, di cui però non c'è alcuna corrispondenza nel film, quindi il titolo rimane lì appiccicato senza un'evidenza diegetica. Perché andare a vedere questo film? Allora, perché Paul Thomas Anderson non lo scopriamo oggi, e oggi è da tempo uno dei migliori registi al mondo. C'è anche Super, da non dimenticare, la colonna sonora di Johnny Greenwood, tuttora Radiohead, ma con una avventura, una carriera solista di assoluto rilievo, ed è una colonna sonora che ospita con gusto David Bowie, Nina Simone, Paul McCartney, Wings, Donovan, Sonny e Cher, insomma c'è tanta roba anche qua, ed è un film che davvero riesce a fare della propria piccolezza, della propria quasi diremmo estemporaneità, valore aggiunto, valore di senso, con quella che è una piccola taglia di misura unica, una misura unica che è quella umana, quindi tutti noi, nessuno escluso, e con anche pregevole facilità ci possiamo riconoscere con felicità anche. Il film Licorice Pizza di Paul Thomas Anderson al cinema da giovedì 17 marzo 2022. Un saluto e un ringraziamento al critico cinematografico Federico Pontica. Grazie Fede, grazie a tutti, alla prossima. Nicola Zambelli, regista del documentario Sarura, il futuro è un luogo sconosciuto, al cinema da venerdì 18 marzo 2022. Ben trovato! Ciao Federico, ciao a tutte e tutti. Ce lo racconti? Sarura è un documentario che è ambientato nella valle di Sarura, vicino al villaggio di Attuani, che si trova nell'estremo sud della Palestina, quindi tra Hebron e il deserto del Negev, ed è una delle zone più feroci, diciamo, in cui l'occupazione della Cisgiordania si manifesta in tutta la sua brutalità. Un territorio periferico molto desertico, sempre sotto minaccia da parte dell'occupazione israeliana. Questo è un villaggio dove noi siamo stati 12 anni fa e dove girammo il nostro primo documentario, che si intitolava Tomorrow's Land, How We Decided to Tear Down the Invisible Wall, quindi la terra del domani, la terra del futuro, come abbiamo deciso di abbattere il muro invisibile, proprio perché in questa zona il muro di separazione, il muro dell'apartheid non c'è. È una zona in cui i palestinesi attraversano questo territorio proprio per entrare in Israele, e che quindi è sempre stata una terra di attraversamento. E in questo villaggio da più di 20 anni viene attuata e praticata una forma di lotta pacifica contro l'occupazione, quindi si tratta di una forma di resistenza non violenta, proprio perché la provocazione dell'occupazione cerca sempre di avere la scusa, il pretesto di una reazione violenta da parte dei palestinesi per avere più possibilità di opprimere il popolo palestinese. Quindi noi girammo questo documentario, che fu tra l'altro l'origine, diciamo, di tutta la nostra produzione di SMK Factory e anche del metodo distributivo di OpenDDB, perché per realizzare quel documentario incominciamo a organizzare una serie di benefit, di attività, di autofinanziamento, che poi ci spinse ovviamente anche a tutta una strategia distributiva capillare che ci permise di fare centinaia di proiezioni in Italia e nel mondo, e ci dimostrò che era possibile in qualche modo anche fare un documentario che magari partecipava a festival internazionali, non rinunciava a una sua idea politica e veniva tutto sommato realizzato produttivamente in maniera indipendente, grazie all'aiuto dei compagni, delle compagne, di chi in questa storia si riconosceva e che anzi ci aiutava a elaborarla noi stessi, quindi una forma anche in qualche modo sempre reputato di intelligenza collettiva. E quindi noi 3 anni fa siamo tornati invitati nuovamente a vedere cosa stava succedendo in quell'area e ci siamo trovati di fronte a quelli che ai tempi erano dei bambini e che ora sono i protagonisti e le protagoniste della lotta nel proprio villaggio, in particolare i giovani e le giovani di Yufo Sumud, che appunto erano delle presenze corali nelle immagini di Tomorrow's Land 12 anni fa e adesso invece sono i protagonisti di Sarura, questo nostro nuovo lavoro. E un po' il tentativo era quello di un po' di aggiornare rispetto alla situazione del villaggio, ma anche quella di vedere come dei bambini che ti è capitato per caso di incontrare 12 anni prima, no, sono diventati poi giovani adulti, e come questa strategia di lotta del comitato di lotta non violenta delle colline a sud di Hebron si sia instillato in loro, nella loro pratica, nella loro lotta. E quindi ecco, questa è un po' la storia di Sarura. Sarura ha una valle attigua al villaggio di Attuani, che è stata abbandonata a fine anni 90, quando sono state costruite e insediate le prime colonie nell'area, quindi Maon, Avat Maon e Avigal, ed è una lingua di terra che ovviamente Israele vorrebbe annettere per unificare i collegamenti tra queste due colonie, e i pastori palestinesi abbandonarono queste valli, questo piccolo villaggio di grotte, perché questa è una zona di pastori beduini nomadi storicamente, tradizionalmente, dove molto spesso alloggiavano anche in grotte di pietra. I ragazzi e le ragazze di Yufo Sumud in Sarura hanno ripristinato queste grotte utilizzate come avamposto per un po' infrangere il piano, no, di sgombero di questa terra da parte di Israele, ed è anche uno dei pochi rari casi palestinesi che si riappropriano di qualcosa che è stato loro sottratto, che hanno perso. E quindi ovviamente è un tipo di azione, come potete ben capire, molto scomoda per Israele, e che quindi ovviamente cerca di targetizzare questi ragazzi cercando di farli desistere, e questo ovviamente si concretizza in continue provocazioni da parte dei coloni, dell'esercito, arresti arbitrari ai danni delle attiviste e degli attivisti di Yufo Sumud, raid notturni come è successo l'altra notte, costanti vessazioni sia da parte dei coloni ma anche, diciamo, da parte delle autorità amministrative che cercano, insomma, di far desistere alle persone da lottare. Chiaramente le detenzioni amministrative sono uno degli strumenti più ricorrenti, perché anche solo una cauzione costa 200-300 euro equivalenti, quindi capite bene che in una zona molto arida, molto povera, caratterizzata da un'economia di sussistenza, anche dover pagare delle penali economiche significa anche minare le possibilità di resistenza. Che forma distributiva darete al lavoro? Come tutti i nostri lavori, come conosci ormai da tempo, per Sarura abbiamo scelto la strada dell'autoproduzione, che si è concretizzata in una piccola campagna di crowdfunding. Purtroppo ovviamente non è andata molto bene, perché era partita un mese prima dello scoppio della pandemia, e quindi tutto l'iter classico che le nostre produzioni seguono, penso a The Harvest, penso a The Milky Way, chiaramente, che è fatta anche di tanti incontri, di tanti scambi nei luoghi, nelle città che attraversiamo per raccontare i nostri progetti, questa cosa non è avvenuta. Ha avuto un sostegno da parte degli Impact Days del Festival dei Diritti Umani di Ginevra, che poco prima dello scoppio della pandemia aveva ospitato la nostra storia, in qualche modo ci aveva dato una mano per svilupparla a livello di incontri, di scambi. Ma quello che noi faremo da 18 marzo in avanti, fondamentalmente per distribuire, quindi anche sostenere la produzione, sarà fare molte date di appuntamenti al cinema, oppure proiezioni con collettivi, con persone che hanno scelto di sostenere questa storia, che recentemente tra l'altro ha avuto il sostegno di Amnesty Italia, patrocinio ovviamente, e quindi anche grazie ad Amnesty credo che riusciremo a fare un bel giro, speriamo il più lungo e proficuo possibile. C'è bisogno di parlare di storie come questa, soprattutto in questo momento caratterizzato nuovamente da uno scoppio di violenza e di occupazione novecentesche, che pensavamo che fossero un po' passate di moda, ma purtroppo i conflitti non passano mai di moda, a quanto pare, e quindi c'è bisogno di parlare di questa cosa, c'è bisogno di parlare di lotta, di internazionalismo, di resistenza e soprattutto anche di lotta pacifica come quella portata avanti dai palestinesi nei territori occupati. Diamo tutti i riferimenti web per i dettagli? C'è una pagina Facebook che si chiama Sarura, c'è un sito internet che si chiama sarurafilm.com, dove appunto c'è un calendario di proiezioni che si sta andando a definire in questo periodo, ci sono già una quindicina di date all'orizzonte, siamo molto contenti perché ovviamente sappiamo quanto il cinema stia pagando un prezzo altissimo, dopo 2 anni di pandemia vediamo le sale deserte, ma siamo fiduciosi che insomma si riusciranno di nuovo a vedere i film insieme, per incontrarsi, per scambiare idee, a portare avanti un'elaborazione collettiva. Questi sono fondamentalmente i 2 canali per Sarura, ma ovviamente anche OpenDDB, sia nel sito che nella pagina Facebook, ha un buon modo per stare aggiornati su quello che bolle in pentola e quello che stiamo facendo. Il documentario Sarura, il futuro è un luogo sconosciuto, al cinema da venerdì 18 marzo 2022. Un saluto e un ringraziamento al regista Nicola Zambelli. A presto. Grazie a te. A presto. Ciao. Il regista Michele Aiello sul suo documentario Io Resto, di nuovo al cinema da martedì 15 marzo 2022 in occasione della giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus. Ben trovato. Ciao, grazie, sempre bello tornare qui, un saluto a tutti i radioascoltatori. Che storia è questa? È una storia che, se uno legge la sinossi, dice oddio, si parla ancora di Covid, di ospedali, però io l'ho fatta perché pensavo proprio che ci sarebbe stata una reazione di rimozione rispetto alla storia di marzo e aprile 2020, quando la pandemia è scoppiata, e quindi ho fatto questo documentario per dare una visione osservativa, più empatica, più lenta a quello che è successo dentro gli ospedali proprio durante lo scoppio della pandemia nel 2020. Come ti sei mosso? Che scelta hai fatto per il documentario? Ho scelto di essere osservativo, quindi fin da subito ho scelto di non fare interviste frontali, ho cercato di seguire le persone nella quotidianità, chiedendo pochissime volte di rifare alcune cose. È stato successo proprio una volta con una intervista, un dialogo tra 2 infermiere, e per entrare ovviamente c'è stata un po' una trafila di richieste che io ho fatto a più di un ospedale, ma poi è stato il primario di malattie infettive di Brescia che ha deciso di aprire le porte a me, che sono uno sconosciuto, e lui concordava con la mia richiesta di lasciare una traccia nella storia di quello che stava succedendo, perché sennò sarebbe rimasta come traccia solamente quella informativa e giornalistica, che però stava anche drammatizzando e ponendo l'accento solo sul personale sanitario come eroe, e questa era una cosa che poi ha dato molto fastidio anche al personale sanitario. In quali strutture sei stato? Il film è ambientato solamente dentro gli ospedali civili di Brescia, che è l'ospedale pubblico di Brescia ed è uno anche delle strutture più grandi d'Europa. E un po' la sfida è stata quella di ambientarlo unicamente dentro l'ospedale, il film, a parte qualche uscita nella città durante sempre il lockdown. E io sono stato lì dentro insieme a Luca Gennari, che è il direttore della fotografia, dall'ultima settimana di marzo fino al 4 maggio, che è l'ultimo giorno del lockdown, quello di aprile 2020. Cosa ne viene fuori? Un racconto che io spero sia il più universale possibile, cioè non è un racconto che riguarda Brescia e la sua storia e la sua lotta contro il coronavirus nello specifico. Spero che sia una storia che riguardi tutti, soprattutto tutte le persone che hanno lavorato in ospedale in questo anno e mezzo, tutte le persone che hanno vissuto l'isolamento dentro gli ospedali e anche i sopravvissuti e le famiglie delle vittime e dei sopravvissuti, perché questo è stato un periodo che ha toccato profondamente queste persone, e quindi io spero che la visione di questo film sia anche una maniera di riconoscersi nella propria intimità e poi ovviamente far vedere a chi non ha mai messo un piede dentro un ospedale in questi periodi di darsi un'idea del carico emotivo che le persone hanno dovuto portarsi dietro, e che è qualcosa che da fuori delle volte non si capisce. Si sentono tante interviste su quello che è successo, però effettivamente poi il carico emotivo e i traumi psicologici i sanitari se li portano dentro e li affrontano magari con qualche percorso psicoterapeutico. Invece sui giornali è spesso stato raccontato il dramma in forma anche speculativa per fare audience, e la reale empatia verso quello che è successo è un po' scomparsa. Allora col film io spero anche che possa anche fungere da materiale terapeutico. Rispetto al tuo punto di vista di partenza, che impressioni ne hai ricavato? Io ero partito pensando, questo è uno di quei classici drammi collettivi che i media seguono moltissimo, e poi le persone, proprio perché sono investite da una massa di comunicazione così grande, poi i media smettono di parlarne e la gente non si ricorda più esattamente, si ricorda magari i momenti più drammatici, poi non capisce quello che è successo veramente. E in realtà poi la pandemia è continuata, i media hanno continuato a trattare l'argomento, però in qualche modo si è verificata questa rottura tra chi ha vissuto il dramma negli ospedali e chi invece non ha la più pallida idea di cosa è successo. Quindi questa cosa io l'ho ritrovata un po' trasformata, questo pensiero, questa intuizione che ho avuto all'inizio, e per me è importante far arrivare questo messaggio. E dall'altra, io non avevo mai visto la sofferenza, non avevo mai lavorato in ospedale, non avevo mai visto una persona morire, quindi per me è stato anche un'esperienza quasi catartica aver avuto la possibilità di capire cosa è successo in quel periodo da testimone privilegiato e non dover pensare in modo razionale a quello che è successo. Quindi mi porto dietro tutta una sfera irrazionale e molto vivida, perché non ho la possibilità, come chi lavora ogni giorno a contatto con la morte, di costruirmi una sorta di difesa o spiegazione, quindi i ricordi che ho sono molto vividi, però è un po' il prezzo, insomma, da pagare. La scelta del titolo? Era legata allo slogan "Io resto a casa". L'ho lasciato con la sua veste più resiliente, resistente, come dire, sono un lavoratore e decido di rimanere qua, non mi tiro indietro, rimango qua perché è il mio dovere. Però mi mancava un po' il collegamento con i pazienti, e dopo che io ho visto con una delle pazienti il film, perché con alcuni pazienti ho fatto tutto un percorso di visione delle immagini mesi dopo la fine delle riprese per renderli consapevoli di quello che avevo filmato, una di queste signore mi ha detto: io resto, io posso dire di essere restata. E con quella frase lei mi voleva dire che c'è stata una lotta dentro di lei, e in questa lotta lei ricorda, tra le allucinazioni varie, che lei ha deciso di rimanere in vita e quindi ha deciso di restare. Ed è una cosa che poi mi hanno raccontato altre persone, di questa sensazione di avere lottato e di non aver ceduto a qualcosa che poteva portare alla morte. E quindi io ho trovato un titolo e poi l'interpretazione piena me l'ha data uno dei testimoni del film. E tutte le informazioni sul sito internet di Zalab, giusto? Esatto, www.zalab.org, c'è la pagina dedicata al film, il trailer e anche le date del tour. A presto! Grazie, a presto, ciao! Il regista Michele Aiello sul suo documentario Io Resto, di nuovo al cinema da martedì 15 marzo 2022 in occasione della giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus. Con Stefano De Feno, regista del film Ananda, al cinema da mercoledì 23 marzo 2022. Ben trovato! Ciao, ciao a tutti! Che racconto è? Ananda non è lo stato di sublime delizia dell'induismo, ma invece una tribù di bambini estremamente gioiosi che hanno deciso di vivere liberamente senza i genitori nella giungla. Ed è la ricerca di questa tribù inafferrabile e leggendaria che poi traccia un asse apparente per un viaggio attraverso l'India. Come sei venuto a conoscenza di questa storia? Perché il mio amico Pierre, con il quale poi sono partito in India, era stato in India 2 anni prima, mi ha parlato di questa tribù leggendaria. Io subito sono rimasto affascinato, anche, non lo so, forse anche era più giovane, era nel 2011, e quindi ho deciso di partire in India e di cercarla. Dal 2011 in poi che è successo? È successo un po' di tutto, anche perché dopo 3 mesi di ricerca, poi mentre eravamo sulla via del ritorno per Delhi, su un autobus tutto girato, che erano 120-130 ore di filmato, di immagini, sono state rubate da un bambino insieme alla telecamera. Quindi è stato, diciamo, un bel colpo. E poi dopo 3 anni sono rientrato in possesso del girato, e poi c'è stata una tragedia familiare, e quindi io sono stato per altri 3 anni fermo, e poi dopo un mio amico mi ha convinto a fare una festa dedicata a mio fratello che era scomparso, e dopo quella festa allora ho deciso di rimettere mano a quelle immagini. E com'è stato il lavoro poi di ricomposizione? Come l'hai strutturato? È stato anche molto d'aiuto Bonifacio Angius, che è il mio amico e collega con il quale lavoriamo ormai da quasi 20 anni. È stato un processo molto lungo, però ho cercato nel modo più semplice di mettere insieme le immagini, quindi di raccontare con semplicità e sincerità, e quindi anche la cosa più semplice di partenza era raccontare il viaggio dall'inizio alla fine. E poi da lì raccontare anche le parti più interessanti, come per esempio quando siamo arrivati al villaggio di Malana, nelle pendici dell'Himalaya, che è stato come fare un viaggio nel tempo o nel passato. Che esperienza è stata questo viaggio? È importante per me, e poi è stato anche molto importante anche il ritorno, perché appunto poi quando ho iniziato a lavorare al montaggio pensavo sempre a mio fratello, e all'inizio anche avevo paura di parlare di lui, poi a poco è venuto fuori. Quindi il viaggio è stato una ricerca di me stesso, però allo stesso tempo il viaggio come il film è anche una ricerca di mio fratello, che rivedo nei visi dei bambini che ho incontrato appunto durante questo peregrinare, e poi anche nella loro gioiosa anarchia degli Ananda. Gli Ananda, raccontaci un po' di loro, com'è stato l'approccio? Negli Ananda posso dire questo, che è un po' come un'isola che non c'è, nel senso, se volete scoprire un po' di Ananda dovete andare al cinema, però posso dire questo, che essendo una leggenda c'è anche molta diffidenza o comunque una negazione totale di fronte a questi miti e leggende. Però allo stesso tempo appunto c'è la necessità di crederci, perché uno magari dopo la visione del film può anche essere convinto che gli Ananda non esistano, però anche è bello pensare il contrario, è bello pensare che gli Ananda esistano. Per saperne di più ci lasci dei riferimenti web? Potete seguire la nostra pagina Facebook Ananda, oppure Twitter, e su Instagram Ananda Movie. Il film uscirà a Roma il 25 di marzo al Nuovo Cinema Aquila, e poi per altre città potete consultare la nostra pagina su Facebook. Comunque le città saranno Firenze, Roma, Perugia, Lucca, Bologna, Torino e poi tante altre che si aggiungeranno dopo. Comunque dal 23 noi siamo in sala. Il film Ananda al cinema da mercoledì 23 marzo 2022. Un saluto e un ringraziamento al regista Stefano De Feno. A presto! Grazie, grazie a voi. Ciao! Claudia Bedogni di Satin Film, che distribuisce il film Il male non esiste di Mohammad Rasulov al cinema da giovedì 10 marzo 2022. Ben trovata! Ben trovato, grazie come sempre dell'invito, grazie, grazie mille. Raccontiamo questa storia? Sono un po' in difficoltà a parlare del male non esiste, perché come tu sai ormai, insomma, no, da tanti anni che ci conosciamo, io ho sempre un grande trasporto, un grande entusiasmo nel parlare delle proposte cinematografiche di Satin, e questo film in realtà è un film che richiede grande sobrietà e grande rispetto, ed è difficile proprio parlarne anche senza un coinvolgimento emotivo, perché è un film davvero importante e particolare. Sono anche in difficoltà perché appunto tutte le volte l'entusiasmo è volto a incontrare, a far sì che il film, a valorizzarne quegli aspetti che fanno sì che il film possa incontrare il suo pubblico. E se tu mi chiedi qual è il pubblico del male non esiste, io ti dico tutti, non solamente i cinefili, non solamente coloro che amano il cinema di puro intrattenimento, popcorn movie, ma anche chi non va al cinema. Però forse dobbiamo fare un passo indietro, perché altrimenti giustamente gli ascoltatori mi dicono ma che film è? Innanzitutto è l'ultimo lavoro del regista iraniano, appunto, Mohammad Rasulov, come hai detto correttamente tu. È un film girato in clandestinità, il regista è iraniano, è ambientato in Iran e racconta quattro storie che sono distanti apparentemente una dall'altra, ma collegate da un sottile filo rosso. Infatti ogni storia, ogni capitolo è una storia a sé, però i personaggi appunto non si conoscono, ma i loro destini si incrociano. Vediamo per esempio nella prima un uomo esemplare, un marito perfetto, figlio perfetto, padre di famiglia, l'uomo che tutte vorremmo avere, lo seguiamo nella sua vita quotidiana, eppure il suo sguardo non è sereno e non è neanche inquieto, è semplicemente spento, senza anima, tradisce un segreto drammatico e il regista ha l'abilità di accompagnarci nella sua vita familiare per farcelo scoprire. Nel secondo invece siamo in un carcere dove sono appunto in servizio dei giovani militari di leva, perché in Iran bisogna obbligatoriamente servire 21 mesi e durante questo periodo sei costretto ad obbedire a qualsiasi ordine, quello di purtroppo giustiziare condannati a morte, e il nostro protagonista non ha nessuna intenzione di farlo, quindi come riuscirà a districarsi purtroppo da questo dilemma. Nel terzo invece siamo in un paesaggio meraviglioso, quindi non siamo a Teheran, ma siamo in questo meraviglioso, appunto, quasi bucoliche, no? Parti dell'Iran che rendono il paese tra l'altro assolutamente affascinante dal punto di vista delle bellezze e dei paesaggi. E vediamo questo giovane soldato che torna appunto nel villaggio della fidanzata, perché della sposa, e dopo aver ottenuto 3 giorni di licenza, che però ha pagato a caro prezzo. E infine il quarto episodio invece è un medico, Baram, che anche qui vive in un paesaggio desertico, altrettanto suggestivo ma lontano dal mondo, e aspetta appunto all'aeroporto la nipote Daria per rivelarle quello che è il segreto della sua vita. Quindi storie, come vedete, tutte un po' diverse da loro, ma in realtà, anche se fortemente radicate in Iran, ci coinvolgono noi spettatori in prima persona, perché un film apparentemente, anche se c'è il tema della pena di morte che aleggia, in realtà è un film sulla responsabilità personale e sul dramma di chi è costretto ad eseguire delle scelte, talvolta degli ordini, contro la propria volontà. Io vidi questo film i primi giorni della Berlinale e rimasi veramente travolta subito emotivamente. È un film veramente ricco, andrebbe tra l'altro visto più volte, come mi dicono gli stessi spettatori che lo hanno amato, che mi scrivono in questi giorni, perché è talmente tenso di significato, di particolari, c'è un po' di suspense in ogni capitolo. Abbiamo tutti un po' la fretta per natura, no? Capire cosa succede ad arrivare alla fine, no? Come si svela. E non ci godiamo invece il passaggio. La bellezza di questo film è che Rasulov in realtà ci accompagna attraverso la bellezza dei volti, la bellezza degli ambienti, la sua narrazione sobria e mai retorica proprio, no? Perché lui non pretende di dare delle risposte, ma sollecita delle domande che proprio ti scavano nell'anima. Io ho pensato, per esempio, ti ricorderai, Federico, quel film che distribuimmo qualche anno fa, che si chiamava Disconosciuto reso dei conti. Erano purtroppo quegli anni infelici in cui venivano vendute le famiglie, quei derivati, appunto i titoli tossici, che hanno causato tanto dolore, addirittura c'è gente che si è suicidata, no? E pensa a quei funzionari che sapevano cosa stavano vendendo al pubblico, erano consapevoli, però non avevano il coraggio di dire no. perché probabilmente avrebbero perso il lavoro, avevano una famiglia da mantenere. Quindi questo film a tutti noi, nel nostro piccolo, senza per fortuna dover arrivare a trovarci di fronte a questo dramma, no? Di dover o meno essere quelli che poi davvero, come tolgono lo sgabello a un condannato, ci troviamo di fronte forse per la prima volta a tutte quelle situazioni della nostra vita in cui forse era anche comodo, no? Non dire di no, perché è una scelta appunto forzata, quindi a volte ci si sente anche un po' protetti, no? Dal dire devo fare così perché non ho scelta. In realtà una scelta c'è sempre e questo filtro, diciamo, che ti invita a prenderne atto e esserne consapevoli. Il film ha vinto l'Orso d'Oro a Berlino, ma ci tengo a sottolineare che è un film importante in sé, non perché ha vinto l'Orso d'Oro. Infatti l'emozione nel vedere per la prima volta un presidente della giuria che con tale trasporto ha annunciato il premio è stata veramente una cosa pazzesca, quando la telecamera poi si soffermava in realtà sulla poltrona vuota di Mohamed Rasulov, perché lui appunto deve scontare una condanna a un anno di carcere, come spesso accade in Iran per gli artisti, quando si mobilita la comunità internazionale la pena rimane sospesa e quindi lui è come se avesse una spada di Damocle sulla testa. Infatti anche noi siamo molto attenti a non dare troppa, no, anche enfasi al suo lavoro, perché da un momento all'altro potrebbe essere nuovamente ripreso e portato in carcere. Quindi è un artista che rischia in prima persona, perché far uscire un film così, tra l'altro passandolo in 4 cortometraggi, vuol dire veramente considerare la tua arte la battaglia della tua vita. E questo col nostro lavoro, con la nostra veramente forza, quando siamo battuti a proteggerlo, perché poi con tutto quello che abbiamo passato, ci tenevamo veramente tanto che il film arrivasse al pubblico italiano, anche perché non sappiamo che il pubblico c'è per questo tipo di film, che non è un film difficile nel modo più assoluto, è un film che segui nonostante la lunghezza, che ti accompagna e entri con i personaggi, sei con loro, li ami tutti, anche quelli che hanno fatto delle scelte che magari non sono le scelte che facciamo noi. E quindi è un film che veramente io credo che tutti debbano vedere, ma proprio per sé, perché è un film che dopo la visione credo che un po' si è cambiati e devo dire che l'incontro con il pubblico questi giorni, parlare con loro, insomma, ho seguito varie proiezioni un po' in giro per l'Italia ed è stato molto bello, molto gratificante, un'occasione di scambio reciproco, di riflessione, e quindi sono veramente molto onorata e molto orgogliosa di aver portato Il Mare Non Esiste nelle sale italiane. Vi auguro lunga vita e ringrazio fin da ora tutti coloro che avranno veramente il desiderio di potersi confrontare con quest'opera magnifica. Il film Il male non esiste di Mohamed Rasulov al cinema da giovedì 10 marzo 2022. Un saluto e un ringraziamento a Claudia Bedogni di Satin Film che lo distribuisce. A presto! Grazie ancora a te. Grazie Federico, a presto. Con la critica cinematografica Anna Maria Pasetti per presentare il film Flea di Jonas Poar Rasmussen al cinema da giovedì 10 marzo 2022. Ben trovata! Ben trovato a te Federico e a tutti gli ascoltatori, sono molto affezionata a voi, quindi vi saluto con grande affetto. Raccontiamo un po' la storia, di cosa si parla? È un racconto in forma documentaria. Poi vedremo che cosa vuol dire forma documentaria, perché è un termine abbastanza generico ormai, creato con l'arte dell'animazione, no? Quindi è un documentario d'animazione. Il regista danese Jonas Poar Rasmussen, che precedentemente aveva fatto altri 3 film che io non ho visto, quindi non ne parleremo, è il racconto della vera vicenda del protagonista, che si chiama Amin Nawabi, che è un afghano, il quale fu sottoposto con la famiglia a una fuga dal proprio paese durante la guerra, ma questa fuga è chiaramente non è soltanto una fuga fisica, perché, e questo è forse il valore aggiunto e particolare dell'opera, è anche una fuga interiore, perché Amin è omosessuale e si dice nel film, ed è veramente straziante come viene fuori questo concetto, che in Afghanistan non esiste neanche la parola per indicare l'omosessualità, cioè è un concetto che non esiste, quindi possiamo immaginare di cosa stiamo parlando. È un lavoro meraviglioso, di grande sensibilità, di grande impatto empatico. Si vede la storia di Amin da quando è piccolino, un bambino anche abbastanza felice in questa terra afghana, con la famiglia, col fratello, e poi lo si vede mano a mano crescere con tutte le difficoltà del caso. Una fuga lunghissima, durata anni, passata per varie traversie e con l'attraversamento poi di paesi, perché loro furono portati, neanche se scapparono, in Russia, in una Russia che certamente non era tenera con loro, anzi si trovarono in una condizione forse anche peggiore, fino a poi riuscire in un modo o nell'altro a mettersi nuovamente in viaggio e attraverso container, trafficanti umani, e arrivare prima in Norvegia, in Svezia, se non mi ricordo se Norvegia o in Svezia, e poi in Danimarca, dove poi è rimasto. È un film davvero che ci riporta insomma indietro nella storia, perché appunto siamo nel periodo della guerra afghana, però ci riporta anche nel presente, perché ci fa toccare con mano sempre la condizione dei migranti, dei profughi, dei fuggitivi da territori di guerra. E sarebbe ridondante retorico dire che ci sta parlando anche di quello che sta accadendo in questi giorni precisi. Sull'animazione, se hai qualcosa da aggiungere sullo stile dell'animazione. Non è un'animazione particolarmente affascinante, travolgente, di quelle che ti incantano, cioè non è, secondo me, l'elemento di forza, proprio lo stile dell'animazione, è il desiderio di utilizzare l'animazione per ricostruire qualche cosa di cui non si hanno materiali e repertori. Ci sono inserti filmati d'archivio della situazione di Kabul o della Russia dove lui arriva, del suo viaggio, sono filmati d'archivio, che è abbastanza interessante questa mescolanza, no, di generi, di stile, però l'animazione in questo caso è utile per avere una massima libertà anche nei flashback, nella ricreazione di quello che poi è la funzione tipica del cinema, cioè creare, rendere visibile l'invisibile. Allora, noi abbiamo dei grandi precedenti, degli eminenti precedenti proprio di grandi registi che hanno voluto utilizzare l'animazione per raccontare situazioni di guerra, situazioni di esilio, di diaspore, migrazioni, soprusi. Vediamo Marjan Satrapi, no? Con il suo film meraviglioso Persepolis, molto bello, anche lei racconta l'infanzia di lei bambina, no, in questo Iran prima libero e poi sottoposto appunto alla rivoluzione islamica. Poi abbiamo Ali Forman, che ha raccontato la situazione dei militari israeliani, cioè questa guerra infinita, no, con l'animazione, bellissimo film. Riti Pan, che ha sempre narrato il dolore, il lutto del suo popolo massacrato della Cambogia. Ne abbiamo tanti, insomma, e questo per far capire come è diventato quasi un genere l'animazione, diciamo, militante. E questo Flea è bello perché è sicuramente un racconto di un popolo, no? Quindi lui è metonimico, di un dramma di un popolo, ma anche personale, perché appunto si tratta forse in maniera inedita di una storia di genere, di riconoscimento di genere, anche della lotta a riconoscere la propria identità sessuale e a farla anche accettare fuori. Lo stile apprezzato, visto che comunque è candidato all'Oscar. Sì, eccezionalmente ha diverse candidature, nel senso che ha più categorie, ha miglior film d'animazione, miglior documentario, questo proprio perché unisce le due cose, certo. Ma è candidato, e poi anche miglior film internazionale, il vecchio film in lingua diversa dall'inglese, in cui compare anche Paolo Sorrentino, appunto. Ed è interessante, è abbastanza curioso che abbia queste tre categorie occupate. Il film fu presentato al Sundance lo scorso anno, con un grandissimo successo evidentemente, e lo distribuisce la Wonder Pictures in Italia da giovedì 10. Il film Flea di Jonas Poar Rasmussen al cinema da giovedì 10 marzo 2022. Un saluto e un ringraziamento ad Anna Maria Pasetti che ce ne ha parlato. A presto! A te un abbraccio, ciao! Con Eddie Bertozzi di Academy 2, che distribuisce il film Parigi, tutto in una notte, di Catherine Corsini, al cinema da giovedì 10 marzo 2022. Ben trovato. Ciao a tutti. Lo raccontiamo? Parigi tutto in una notte è un film della regista francese Catherine Corsini con Valeria Bruni Tedeschi, Marina Foïs e Pio Marmai ed è uno strano ibrido fra una commedia e un dramma e racconta la storia di una disegnatrice egocentrica e isterica, Valeria Bruni Tedeschi, sull'orlo di una vera crisi di nervi perché è appena stata mollata dalla compagna e non se ne può capacitare. Alla frattura di questo rapporto ne corrisponde un'altra, quella del gomito, perché mentre la rincorre per strada cercando di chiederle di rimanere con lei, di tornare indietro, cade e finisce al pronto soccorso. Ed è qui che inizia veramente il film, perché fra le corsie e corridoi di questo pronto soccorso francese, parigino, che scopriremo non essere dissimile dai nostri pronto soccorsi italiani, la nostra protagonista incontrerà un'umanità varia e variegata. Su tutti, un camionista ferito, arrabbiato, reduce da una protesta dei gilet gialli, che rappresenta l'esatto opposto di questa donna. Abbiamo una ricca borghese e un proletario dalla vita di tutti i giorni. Fra i due si inscenerà una serie di siparietti comici e al tempo stesso serissimi che a noi hanno fatto veramente pensare ai duetti Melato Giannini in Travolti da un insolito destino. È veramente un film pieno di verve, di comicità, ma che ci spinge a riflettere su alcuni dei problemi cardini delle nostre società. Che percorso ha fatto a livello internazionale? Il film è stato presentato in concorso all'ultimo Festival di Cannes, dove ha sorpreso tutti quanti, perché era il film che nessuno si aspettava. E sull'onda di quella sorpresa, che ha travolto in pieno anche noi, abbiamo deciso di portarlo in Italia. Di Catherine Corsini cosa sappiamo? È una regista francese di lungo corso, molto nota in patria, ha fatto alcuni film di grande successo, ancora poco nota da noi, e allora in linea con quelle che sono spesso le scelte di Academy 2 abbiamo pensato che fosse arrivato il momento di presentare, di portare questa regista anche in Italia, farla conoscere al nostro pubblico, perché se lo merita. Cosa vi ha convinto principalmente di questo lavoro? La maniera assolutamente incredibile con cui riesce a mescolare risate e serietà con un senso del ritmo veramente pazzesco. È un film che ti lascia senza fiato. Al termine del film ti sembra di aver fatto una lunga corsa attraverso l'umanità, attraverso le classi sociali, attraverso i piccoli e grandi problemi, anche quelli buffi della vita. Il film Parigi tutto in una notte di Catherine Corsini al cinema da giovedì 10 marzo 2022. Un saluto e un ringraziamento ad Eddie Bertozzi di Academy 2 che lo distribuisce. A presto! A presto a voi! Con il critico cinematografico Enrico Magrelli per presentare il film La promessa di Thomas Krajtov al cinema da giovedì 10 marzo 2022. Ben trovato Enrico. Buon pomeriggio, grazie dell'invito. Questo è un film che credo che si possa consigliare, no? Potremmo consigliarlo per alcuni motivi che poi sveliamo magari nel corso di questa piccola chiacchierata. Che cosa racconta? C'è un'aggiunta rispetto al titolo originale, che è esattamente La promessa. Nella versione italiana c'è anche un dettaglio ulteriore che è Il prezzo del potere. Al centro del film c'è una sindaco, Clémence, interpretata da Isabelle Huppert, e accanto a lei, e ha un ruolo non indifferente proprio perché è un bravissimo attore, c'è il suo consigliere assistente, spin doctor, Angelo Custode, interpretato da Reda Cadet. La sindaco in teoria potrebbe candidarsi per un secondo mandato, siamo in una cittadina non lontana da Parigi ed è impegnata, e da qui nasce il titolo, spera anzi di poter avere un finanziamento molto consistente per mettere ordine, per sanare tutti i problemi che ha una zona della città, no? Anche c'è un degrado non indifferente ed è una zona da riqualificare, per cui stiamo in uno di quei palazzoni che somigliano a un alveare con vari problemi idraulici e non solo, dove purtroppo le persone fanno fatica a vivere perché poi naturalmente ci sono anche dei profittatori che riempiono all'inverosimile questi palazzi. E poi a un certo punto, tra lasciare la politica, ricandidarsi per il ruolo di sindaco, arriva una possibilità di fare un salto nella gerarchia della politica e quindi diventare ministro. Questo accade davvero nei primi minuti, quindi non stiamo rovinando, credo, spero, il piacere a nessuno di vedere il film. E una delle cose interessanti del cinema francese, che comunque ha una flessibilità superiore a quella italiana, no? Questo possiamo dirlo, per cui i temi del lavoro, non è questo il caso, i temi della gestione della politica, il tema in altri film della competizione elettorale per diventare presidenti della Francia, sono temi che il cinema francese affronta abbastanza frequentemente, li affronta anche con una certa forza, no? Pensiamo al cinema di Brisée, no? Che è un regista davvero di grande, grande interesse, e questo ho l'impressione che in Italia, se non si entra nella zona dei documentari, sono temi, sono snodi, sono incastri, sono nodi sociali che vengono un po' trascurati. Poi ci sono delle eccezioni, naturalmente, però sono delle eccezioni veramente molto piccole, spesso che non hanno alle spalle un finanziamento, un cast importante come quello di questo film. Io ho citato i due protagonisti principali, ma insomma ci sono anche molti altri attori importanti. Dal punto di vista stilistico, cosa ti convince? Il dinamismo con cui viene raccontato il film, no? Siamo in un territorio infido, se vogliamo, no? Perché il territorio della politica, anche se la protagonista non è assolutamente una sprovveduta, è un terreno in cui sono molto importanti gli accordi, sono importanti le mediazioni, i compromessi, e nel quale non mancano i tradimenti. E il regista non inquadra tutto questo in modo statico, no? Non fa dei quadretti, per così dire, no? Anche se poteva forse fare, ma per fortuna non l'ha fatto, dei quadretti pieni di realismo, pieni di come se, no? Quando la finzione sembra manipolare o giocare con la realtà. Mentre, essendoci vari piani del racconto, da una parte un insieme urbanistico molto degradato, poi ovviamente ci sono le stanze del potere massimo, quindi quelle del governo, nella quale naturalmente la politica viene invitata più di una volta e trattata in un certo modo. Ci sono gli incontri intermedi, no, per cercare di avere questo finanziamento davvero molto, molto impegnativo da un punto di vista economico, e come spesso accade quando si vuole raccontare quella tipologia di mondo, una regia che sia quasi non documentaristica, perché non avrebbe senso, no? Però in cui c'è un grande dinamismo del punto di vista, che significa anche un grande dinamismo della macchina o delle macchine da presa, e questo fa sì che, pur essendo un film più lungo di 2 ore, ormai è una tendenza perversa e generalizzata del cinema contemporaneo, non ci sono momenti di noia. Naturalmente l'uso della parola è inevitabile, visto che stiamo parlando comunque di problemi sociali, economici e politici, e poi in genere nei film francesi, in genere dico, c'è un uso davvero debordante del dialogo, no? Cosa che non sempre accade in altre cinematografie, e quindi questo è sempre un po' minaccioso, no? Per lo spettatore, perché tu sei lì che senti questo scambio, queste emozioni, queste polemiche, uno può anche essere preso da una noia vertiginosa. Qui mi pare che la noia venga tenuta abbastanza a bada. Formalmente, usando una formula un po' antica per parlare dei film, il film ha una sua vitalità, ecco, non è inerte. E in tutto questo, nonostante questo dinamismo al quale accennavo, alcune inquadrature sono costruite con un gusto, direi, interessante, se non altro. Il film La Promessa di Thomas Kraithoff al cinema da giovedì 10 marzo 2022. Un saluto e un ringraziamento al critico cinematografico Enrico Magrelli. Alla prossima! Certo, molto volentieri. Buon lavoro! Con Daniele De Michele per presentare il suo film Naviganti su RaiPlay da giovedì 10 marzo 2022. Ben trovato. Ciao e grazie. Come lo presenteresti questo lavoro? È un lavoro da un lato urgente, punk, e dall'altro molto laborioso, su una riflessione sull'arte e il capitalismo durante e dopo la pandemia. Come nasce tutto? Il film nasce un po' per sbaglio, un po' per gioco, nel senso che durante la pandemia mi appacchiavo come qualsiasi persona intanto, ma forse tanto più come artista, nel senso che sentivo che l'aria cambiava, che lo spazio per l'arte si riduceva, e quindi a quel punto ho cominciato a fare delle interviste via web a persone varie, sociologi, medici, e poi lentamente sempre più gli artisti per vedere come stavano, e da questo è nata poi l'idea di farlo. Come hai scelto interlocutori e interlocutrici e poi come hai strutturato il film? Interlocutori ci ho messo molto tempo, nel senso che inizialmente era un'indagine, quindi con uno spettro molto molto vasto, però poi lentamente mi sono concentrato su tre personaggi principali, che sono Giulia Bonaldi, che è una scenografa disoccupata, Daniele Seve, che è un musicista, insomma, che tutti conosciamo, che chiaramente come tutti i musicisti non faceva spettacoli, ma soprattutto rifletteva su quale fosse lo stato dell'arte, e poi Modesto Silvestri, che è uno dei protagonisti di Villani, che è un filosofo, quindi era in grado di riflettere sulle cose del mondo dal punto di vista del mondo rurale. E poi ci sono una serie di personaggi di compendio come Marco Revelli, che permetteva una riflessione più ampia sul capitalismo all'epoca attuale. Che ne è venuto fuori? È un film molto particolare, un film documentario, un documentario in cui io seguo questi tre personaggi più me, e che lentamente poi comincio a giocare con loro, nel senso che chiaramente questo deve essere un documentario molto rigoroso in cui si seguono i personaggi nel tempo, lentamente diventa una piccola deriva poetica, surreale, iconoclasta sul fatto che gli artisti comunque si inventano sempre qualcosa per andare avanti, e quindi parte come un documentario vero e proprio, anche se con l'obbligo di non potersi muovere del lockdown, per poi muoversi e sovvertire la nostra realtà e il nostro immaginario. Cosa ti lascia? Beh, intanto l'amaro in bocca, perché comunque è nata come una riflessione amara sull'arte e continua ad esserlo, nel senso che comunque l'arte non si è modificata, non si è evoluta, però dall'altro lato lascia la consapevolezza che è possibile fare cose nell'urgenza, è possibile il vecchio adagio James Brown e del punk, del do it yourself, cioè fai e fallo comunque, se nessuno ti aiuta fallo da te stesso, e trova l'energia dentro te stesso e dentro la tua comunità, e sicuramente è la comunità, nel senso che comunque ho chiesto aiuto a tanti in ogni modo, e in tanti mi hanno aiutato, dai montatori agli sceneggiatori ai protagonisti, si è creata una comunità, perché questo probabilmente è l'unico modo per sbancarla. Che forma distributiva gli stai dando? Purtroppo l'anno non aiuta, nel senso che chiaramente il tour è stato fatto in forma minimale, il film è andato al Festival di Venezia, Isola tipo Giornata degli Autori, e poi dopo un piccolo tour, ma in sale, che chiaramente hanno tutte le problematiche attuali, adesso è sulla piattaforma di RaiPlay e quindi è visionabile su RaiPlay. Oltre a RaiPlay ci dai altri riferimenti web per saperne di più? Bacio il mio sito donpasta.it e il sito di RaiPlay. Su cosa stai lavorando adesso? Sul nuovo film che si chiama I Mastri, sugli artigiani, che è un po' il secondo volano di una triade che sto facendo sul mondo rurale dopo i Villani, e poi a breve uscirà una serie TV, la mia prima serie per il Gambero Rosso, sull'antropologia del cibo. Uscirà a fine marzo, sono molto contento di questa cosa. Il film Naviganti su RaiPlay da giovedì 10 marzo 2022. Un saluto e un ringraziamento al regista Daniele De Michele. A presto. Ciao, grazie. Ciao. Con Martina Schmid, direttrice artistica della seconda edizione del Festival di Cortometraggi Max Tremin, Very Short Film Festival, dall'11 al 22 marzo 2022. Ben trovata! Ciao, buon trovato anche tu e tutti voi. Lo raccontiamo per chi non lo conoscesse? un festival molto bello, che sono molto affezionata, che è nato l'anno scorso, è un festival di cinema molto brevi, che è di massimo di 3 minuti. Diamo anche molto spazio, perché è quello che mi piace, il cuore del progetto, dare spazio non solo alle scelte dei registi, delle distribuzioni, ma anche alle persone che stanno facendo film nel mondo. Per cui noi abbiamo, da un sacco di paesi ci mandano dei film e diamo spazio e fra virgolette giudichiamo, perché c'è la giuria, ma non è giudicare, è proprio apprezzare e scegliere i migliori 10 film di massimo 3 minuti che ci arrivano. Quest'anno poi alla seconda edizione devo dire che comunque è stato un esperimento, per cui la prima edizione l'anno scorso e quest'anno abbiamo aggiunto, e devo dire che stiamo crescendo, per cui quest'anno abbiamo aggiunto un'altra categoria che è quella delle scuole, per cui vogliamo dare spazio anche agli studenti che magari sono anche più liberi, magari sono anche più ambiziosi o più fantasiosi, perché ancora non sono entrati magari nel mondo del lavoro, e per cui abbiamo anche un premio per gli studenti che si chiama Next Gen, e questa è una cosa che a me particolarmente mi sta molto a cuore. Una doppia veste quest'anno in streaming ma anche in presenza. Quest'anno abbiamo messo un piede fuori dallo streaming, siamo nati, comunque noi vogliamo rimanere in streaming, vogliamo rimanere online, perché vogliamo dare la possibilità al mondo, visto che riceviamo film da 112 paesi, al mondo di vederci, per cui anche magari persone che stanno lontane, per cui il nostro luogo è comunque internet e l'online. Però questo non toglie che farlo in un mondo fisico anche è interessante, importante, divertente anche. Quest'anno lo facciamo a Milano, perché noi siamo milanesi, abbiamo il patrocinio del Comune di Milano e siamo timidamente usciti, non facendo una grande cosa, ma facciamo una proiezione all'Anteo Ariosto. È un cinema che a me piace molto, un cinema di quartiere, ex cinema del quartiere parrocchiale, che adesso è stato conglobato nell'Anteo, e partiamo da Milano. Vabbè, c'erano tutte le problematiche anche pandemiche, per cui non sapevamo se si poteva, se non si poteva a marzo, adesso finalmente possiamo, e possiamo anche avere il bar nel cinema, e per cui faremo il 19 marzo alle 20 una proiezione di tutti i corti, e la domenica di matinè alle 10:30 del mattino sempre all'Anteo Ariosto, per cui questo è il nostro primo passo fuori dallo schermo e dentro uno schermo, il cinema è sempre dentro uno schermo comunque, per cui sono veramente contenta anche per il patrocinio del Comune di Milano che ci ha dato questa possibilità. Dei paesi di provenienza ci hai detto, quante saranno le opere presentate? Sono 100, all'Ariosto saranno 70 perché sarà quello del concorso ufficiale, mentre nell'online, per cui nel festival che nella nostra piattaforma, ci sono 100, di cui 70 del concorso ufficiale e 30 delle scuole di cinema, videomaker, di animazione, abbiamo tantissime animazioni, per cui sono 100 film presentate nel festival, di cui vinceranno 10 nel concorso ufficiale e 3 nel concorso della nuova generazione, della futura generazione di videomakers. Ci sarà anche modo di incontrarli, gli autori e le autrici? Noi li invitiamo se sono a Milano, li invitiamo tutti ovviamente, però io immagino che quelli che saranno a Milano avranno più possibilità di venire, li abbiamo invitati all'Ariosto. E comunque quest'anno abbiamo una cosa che a me piace molto, perché vorrei creare col festival anche una community, per cui un nostro giurato di quest'anno è il regista che ha vinto l'anno scorso. Per cui in realtà lo potrete vedere al giurato che è il regista che ha vinto l'edizione dell'anno scorso. E a me è una cosa che ci tengo tanto, perché comunque il festival e partecipanti, chi lo organizza e chi partecipa, mi piace l'idea che si crei una community fra di noi. Ci dai tutti i riferimenti web per i dettagli? Sono www.maxtremin.com con il 3 e il numero, e su quella pagina potrete vedere un pochino tutto quello che ci sarà quest'anno, che abbiamo aggiunto anche 3 masterclass che potete vedere gratuitamente. Il festival è gratuito, chi lo vede, e diciamo che si deve loggare soltanto se vuoi votare, commentare o votare i film, per cui ci sarà anche il premio dell'audience, e comunque se no è tutto gratuito. Anche le masterclass, che faremo una masterclass sul cinema sonoro, una masterclass sul cinema mascherato, che sono il trucco del cinema, e una masterclass invece sui videogiochi che si approcciano anche molto al cinema, perché in realtà sì, è vero che è un festival di cinema, ma in realtà è un festival di audiovisivi quello che vogliamo fare, nel senso che c'è un'ibridazione fra il videogioco, la videoarte, il cinema, un po' come se adesso fossimo una società liquida, come si usava a dire un paio d'anni fa, per cui anche nel cinema c'è questa ibridazione. www.maxtremin.com. La seconda edizione del Festival di cortometraggi Max Tremin in streaming è a Milano, alla Sala Anteo e Sala Santa Fe Cinema dall'11 al 22 marzo 2022. Un saluto e un ringraziamento alla direttrice artistica Martina Schmidt. E io ringrazio te tantissimo e ti invito a venire a vedere. Un abbraccio e a presto. Un abbraccio, grazie mille. Ciao. Okay. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.